Questo per ogni persona. This is for every people and artists ever enemy could predict the well and tell the wrong. A secret enemy predict the well and made the wrong. About your steps are calling. I want made peace about your steps forever. Antivirus, Chimera, Salvation Humanity. Antivirus, Chimera. Funeral of a pop on a ship. A pop on a ship border, motherfucker. Il mondo torna indietro e loro dicono alla mia parte immortale e sublime di crepare. Mi vogliono vedere morto e questo è il funerale, il mio funerale. E ora è un bel giorno per morire perché ho te nell'anima e ci vorrebbero dividere. Sparo di pace loro, ma per la loro pace società egoista che non vuole un passo indipendente e libero. Che non vuole passi indipendenti, liberi e in pace. Ci vuole controllare come fossimo un criminale. Antivirus, Chimera. E di Instagram frasi che non hai mai detto portano sfiga e rottura di favole. Ogni cosa la vogliono riversa. Ti vogliono con loro e lo fanno dire alla mia anima. Ti vogliono rapire alla mia lirica. Ogni tua frase tolta, tolta, tolta, tolta. Lasciata la sporcizia. Il banchetto del volgare della sua divizia. Lasciata la sporcizia. Non c'è modo di finire di far sparare nel cuore questo mostro. Mi vorrebbero vedere già vecchio e lontane da tutte ste giovani ragazzine da montare. Mi vorrebbero vedere già vecchio, lontano da tutte ste ragazzine da montare. Nella loro porca mente criminale c'è solo porno, niente affetto. Nella loro fottuta mente criminale c'è solo porno, niente affetto. Niente arte, niente musica. Arriva l'ultimo atto, quello del tuo bacio prima di essere ucciso. Ultimo atto, ma di una storia d'amore e di gloria, nessun rimorso. E dopo questo, tuo dolce bacio fuori dalle righe di mille impurità di pensiero, al dolce girare corretto, iniziano a smuoversi. Antivirus, worst term from inception. E tutto torna perfetto, come il tuo sorriso e il tuo corpo nudo nel letto. Come il tuo sorriso e il tuo corpo nudo nel letto. Ah, sei te il prossimo marcio che vuole vivere questa cosa? E mai che lo fai senza la mia musa, hai capito? From the talking bag of the mirror, c'è una serie. Colombia. Don't talking back. Really?